Mix 24 di Giovanni Minoli. In superficie e nel web, i venti di guerra fredda tradizionale 2.0 tra Mosca e Washington si fanno sempre più forti. Putin continua la sua guerra di potere contro gli Stati Uniti d'America e si pone come spauracchio dell'Occidente. Stati Uniti e Gran Bretagna stanno valutando nuove sanzioni economiche alla Russia per il raid su Aleppo. Putin avverte che eventuali sanzioni non spaventano Mosca e anzi saranno controproducenti. La Casa Bianca di Barack Obama ha ordinato di preparare piani per sferrare un attacco informatico senza precedenti e in teoria clandestino contro la Russia. Se Putin continuerà a fomentare i separatisti filorussi e la NATO rafforzerà davvero la presenza militare, la guerra rischierebbe di diventare molto meno fredda. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Benvenuto professor Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Professore, tra 20 giorni si vota negli Stati Uniti, la situazione tra Casa Bianca e Cremlino sembra che stia precipitando. Una nuova guerra fredda alle porte? Sì, certo, è una nuova guerra fredda senza quella connotazione ideologica tuttavia che aveva caratterizzato l'altra guerra fredda, la quale forse per questo poteva essere più pericolosa. Io credo naturalmente che tutti possano cercare di fermarsi al momento giusto e i russi hanno dimostrato di avere in molte circostanze molto più buon senso di quanto non si creda. Ma vedi, il grosso problema in queste faccende è che nel momento in cui si entra nel gioco delle provocazioni reciproche, sono provocazioni militari, in altre parole, certo. Si manda un aereo da qualche parte, si attraversa una frontiera che non si dovrebbe attraversare e ci si mette nelle mani dei militari. In altre parole, a quel punto la politica è scappata, è sfuggita alle mani dei politici ed è passata nelle mani dei militari. E i militari vogliono fare la guerra per mestiere? Non necessariamente, ci sono anche quelli che hanno molto buon senso, ma non hanno una stessa, come dire, educazione politica. Ecco professore, però la mia impressione è che ci siano almeno due fattori scatenanti. Il primo punto, la rivoluzione in Ucraina è stata vista da Mosca come una provocazione americana, no? Siamo d'accordo? Sì, anche con qualche ragione. Il secondo punto invece è la guerra in Siria, che è stato vera, obiettivamente il più grande fallimento di Obama in politica estera. Anche questo mi sembra assodato, no? Sì. Obama voleva bombardare subito, poi è stato fermato da Putin, anche in parte dal Papa, poi a trattare con Assad, che prima voleva morto. Che affidamento ci può essere da parte degli occidentali in quel teatro? Sì, io credo che Obama abbia qualche scusa. Era andato alla presidenza nella convinzione che occorresse disfare quello che aveva fatto Bush e ritirare le forze armate da qualsiasi teatro di guerra, Iraq, Afghanistan. Naturalmente ha trovato molte opposizioni a casa sua, probabilmente nel Pentagono. E allora ha dovuto in qualche modo venire a compromessi con il proprio paese, con le istituzioni del proprio paese. Non voleva andare in Siria, a un certo punto premuto dal Pentagono ha detto sì, ma se usano le armi chimiche ci andiamo, poi quando naturalmente hanno usato le armi chimiche ha cercato di non andarci. Insomma, quell'uomo ha vissuto molto amleticamente. Amleticamente, però con conseguenze per gli altri abbastanza alte, perché l'incertezza nella guida è stata alta. Naturalmente questo è uno dei temi del giorno, gli Stati Uniti non sono più una guida. Ecco, è davvero male? Questo è un bel interrogativo. Comunque, prima di arrivare lì, Putin nella lettera New York Times del 2013 ha parlato del pericolo appunto dell'eccezionalismo americano cui faceva riferimento Obama. È meglio appunto che il mondo, per il mondo, che finisca questo eccezionalismo? Io ne sono convinto, ma credo che un paese che ha perduto due guerre e non aveva vinto quella del Vietnam, che è in qualche modo direttamente responsabile della crisi del 2007 e del 2008, che nel momento in cui cerca di ridimensionare le proprie ambizioni, come ha fatto Barack Obama, compie altri errori, forse inevitabili. Beh, a questo punto possiamo davvero lasciargli la leadership del mondo? Anche perché, senta cosa ci ha detto Prodi qualche giorno fa a proposito del fatto che gli americani non li vogliono più i loro morti. La società americana non tollera più il ritorno dei cadaveri, i repubblicani, i democratici, non riescono più a sostenere prevedere la possibilità di avere dei ragazzi morti che tornano. È una delle ragioni, professor Romano, questa? Sì, è una delle ragioni, ma il non volere morti non significa non desiderare guerre. E quella parte della società americana che non vuole i morti, ma continua ad essere in qualche modo bellicosa, ha trovato altre armi di cui servirsi. Naturalmente i droni, tutto ciò che uccide dal cielo senza che l'uomo sia... Però sappiamo che la guerra, se poi non si fa sul terreno, diventa una guerra difficile, senza, allora si arriva a tirare bombe atomiche, insomma. Naturale. E la guerra sul terreno si spera ancora di farla fare agli altri. Esatto. Ecco, gli Stati Uniti in questa chiave sono una potenza depotenziata da Obama, insomma. Poi forse sia meglio o peggio, questo lo vedremo, lo dirà la storia. Sì, io continuo a riservare a Obama, come dire, un giudizio semifavorevole, perché le intenzioni erano buone, era un socialdemocratico in un paese dove la parola non può essere usata. Senta, però abbiamo invece al contrario Putin, che ha un'eccezionale capacità di lettura strategica e diciamo che ha meno problemi a usare lo strumento militare. Quindi si apre una nuova era della Russia? Sì, ma non dimentichiamo che le ambizioni di Putin sono in qualche modo giustificabili. Putin ha ereditato una grande potenza che era morta in una situazione di rassegnazione. Quella sì. Rassegnazione lo aveva sdegnato. Certo, è un nazionalista e in qualche modo cerca di restituire al suo paese il prestigio. La dignità e il prestigio. La dignità che ecco. Ha perduto. Però rispetto a Cuba al 63, adesso siamo a parti rovesciate, è la NATO che piazza missili balistici, sistemi da combattimento in Polonia, in Romania, fa esercitazioni militari nei paesi baltici. Beh, è una bella provocazione però. Naturalmente, qui l'errore è stato quello di lasciare entrare nell'Unione Europea e nella NATO, perché certo. I ingressi erano in qualche modo collegati. Una lobby antirussa. Composta da 4-5 paesi, per cui il nemico è la Russia, e l'ingresso nella NATO era stato non l'ingresso in un'organizzazione occidentale, ma in un'organizzazione antirussa. E questo è il problema che c'ha la NATO dentro il suo corpo, diciamo. E che non sembra voler risolvere. 800-24-0024 per gli sms, 341-238-6666. Ecco Mario, è molto interessante quest'ultima sì, affermazione di Romano, perché questa lobby antirussa dentro la NATO che fa come che ha questo obiettivo, certo, spacca e destabilizza. Sì. Mi dicevi che stavi leggendo dei documenti interessanti su questo sì. tema. Sì, no, è proprio sulla zona del Baltico, diciamo, che si sta giocando una partita molto rischiosa. Allora, ci sono un po' di war games in corso, dal punto di vista proprio teorico dei documenti, che poi però costituiscono base pratica, come suol dirsi. Esercitazione. Esatto, la Rand Corporation, che è uno dei più autorevoli think tank americani, ha stimato, senti qua, che la NATO oggi non sarebbe in grado di difendere i paesi baltici da un attacco russo. Mosca nel giro di poco meno di 60 ore potrebbe tranquillamente invadere Riga e Tallinn, che sono capitali di Lettonia, sì, Estonia. Ora, Rand ha stimato che per respingere un attacco russo servirebbero 7 brigate, di cui 3 corazzate. E arrivano i militari di cui parlava sì, Romano. Ogni brigata sono circa 5.000 uomini, quindi moltiplica per 7, facciamo 35.000. Più appoggio logistico, stiamo a 40.000. Mi sembra un po' difficile. C'è solo un problema, solo un grande problema. Perché mai dovrebbe farlo Putin? Questo... È questo il punto che io francamente non riesco a capirlo. Temo che i cremlinologi della Casa Bianca abbiano francamente esagerato. Che dici tu Pietrangelo? C'è troppo whisky? Né? Intanto bisogna mettere in fila dei fatti e bisogna ricordare che non molti giorni fa Putin ha lasciato in asso Hollande. L'incontro sì. non si è avuto sì. perché c'era una richiesta ben precisa dai francesi, che era quella di discutere un po' di tutto, mentre invece Putin, come si dice in gergo, sta imponendo la propria agenda. Oggi per esempio c'è il summit a 4, cioè si incontreranno con Putin, Merkel, Hollande e Poroshenko, e lì la discussione è proprio su Siria e Ucraina. Sì. I tavoli sono molto... Quello che dicevamo con Sergio Romano. Appunto, i tavoli sono diversi. La vera questione è quella di cominciare a ragionare in termini che non sono più quelli della cosiddetta dottrina atlantista, perché... Lo schieramento è quello di una potenza europea, e si chiama Russia, che conosce bene il terreno europeo, e un'altra potenza che ormai è sempre più estranea al continente europeo, per quanto possa essere padrona e protettrice. Certo. Cioè gli Stati Uniti non sono più nelle condizioni di controllare, non solo militarmente, come ha ricordato prima Mario, non sarebbero in grado di difendere. Ma lo dicono loro stessi ormai, cioè è una cosa... E poi quello che ha detto Prodi è anche interessante, sì, cioè molto. Hanno proprio cambiato la strategia e Romano dice... Ma chissà, forse però è a questo punto, scusate, come dice Romano, che ha sottolineato un fatto molto importante che la propaganda ufficiale non considera mai, e questi, gli americani, hanno perso due guerre e non hanno vinto quella del Vietnam. Certo. Cioè non sono più nelle condizioni di imporre dei diktat in un territorio come quello europeo, dove comunque la più importante nazione è la Perché resta. In ogni caso le guerre non le sanno fare. Scusa, Giovanni, solo una notazione. Resta un dilemma. Cosa si fa senza lo scudo americano, diciamo. Questo forse, è il punto. Forse questa è l'apertura di discorso. Ci sarà lo scudo europeo. No, si spera. No, ma questa è semplicemente l'apertura del discorso necessario dopo le elezioni americane. Sì, a seconda di che. Ecco. Sandro Teti è un esperto di relazioni internazionali. Dall'81 all'84 ha vissuto e lavorato in Unione Sovietica a Mosca presso l'agenzia Novosti. Ecco, dottor Teti, siamo di fronte a una nuova guerra fredda oppure no? Beh, un risgurgito di guerra fredda c'è sicuramente. Adesso dirimente sarà l'elezione del nuovo presidente. Di questo ne parleremo. Perché sì. Gli Stati Uniti pensano che Putin voglia invadere i paesi baltici? Ma le sembra credibile? No, a me sembra una cosa del tutto assurda, faccio fatica a credere. Ma credo. Senta, dottor Teti, cosa è la patria per i russi? Qui con Mario e Pietrangelo spesso ricordiamo l'idea della grande madre Russia, cosa che però sembra essere completamente sparita dai libri di storia. Ma nei libri di storia nostri, occidentali, italiani, però da loro addirittura il termine patria viene declinato con due parole diverse, una maschile e una femminile, cioè atiecestvo, che è quella maschile, evoca il padre, la responsabilità nei confronti della patria, ma una responsabilità che ha un carattere razionale, mentre poi rodina, che viene associata alla madre, appunto alla madre Russia, è un sentimento del tutto incondizionato, è un sentimento filiale, ed è così forte da sacrificare la vita per difenderla. Senta, quindi, dottor la madre Teti, come... ma ascoltiamo insieme questo file. Io ho eseguito gli ordini. Ho mandato all'attacco i miei uomini. Ma i tedeschi ci hanno accerchiato. Loro hanno l'artiglieria, gli aerei, i carri armati. E noi, che cosa abbiamo noi? Il sacro dovere di resistere. Io sono una pietra. Non mi muovo. Questa città è Stalingrado. Ecco, il nemico alle porte è il titolo del film. E così anche oggi la Russia, cioè per Stalingrado si moriva perché c'era quel sentimento come quello per la mamma, come diceva prima? Sì, io direi che questo, dopo un decennio di fortissima umiliazione, di speranza, sincera speranza nei confronti dell'Occidente, in particolare dell'Europa, anche degli Stati Uniti, c'è stata una profondissima delusione e si sentono comunque circondati, e lo sono oggettivamente. Ma è su questo sentimento di delusione che Putin ha costruito il suo potere oggi? Anche perché ha più che triplicato il PIL, ha migliorato le condizioni di vita delle persone. Però adesso l'economia è in crisi. Cioè che l'ha portato all'83% di rating di gradimento, sono state le sanzioni, è stato questo accercamento che continua. In questo momento nel Mar Nero incrociano navi da guerra americane, sono state, poi da noi non se ne parla, per la sesta volta è entrato nel porto di Poti, che dista meno di 10 miglia marine che si trova in Georgia dal confine russo, esercitazioni continue vicino alla Crimea. Cosa direbbe la stampa internazionale se per tutta l'estate aerei, elicotteri, sottomarini, navi da guerra russe fossero passate incrociando nel Mediterraneo, pochi certo, chilometri dalle acque territoriali, ecco, americane a Los Angeles? Senta, dottor Tetti, rischiamo secondo lei una crisi come quella dei missili a Cuba? Credo e spero proprio di no, a meno che andiamo proprio a vogliamo adesso dopo il Montenegro far entrare anche la Georgia e l'Ucraina nella NATO e continuiamo con queste Senta, ma che cosa dicono i cittadini russi di fronte a questa situazione? Sono informati su quello che accade oppure la stampa è molto controllata? Allora, i cittadini russi sono informatissimi perché per un semplice motivo, che su web si può accedere a tutto, a qualsiasi tipo di informazione, di blog e di informazione. E poi anche la carta stampata, il giornale della povera Politkovsk, viene venduto ovunque nei chioschi del centro, solo che praticamente non viene acquistato, una tiratura bassissima, perché tutto ciò che è associato con l'Occidente adesso è molto screditato. È molto screditato. Poi c'è anche un'emittente importantissima che trasmette 24 ore su 24 in lingua russa, che è Radio Svoboda, Radio Liberty, finanziata dal Congresso degli Stati Uniti, che si può ascoltare liberamente in tutto il paese e fa, diciamo, una propaganda ostile alla Russia. Dottor Tetti, lei pensa davvero che Putin può aver ordinato l'hackeraggio dell'archivio informatico del Partito Democratico americano? Io penso di no, comunque nell'ambito delle operazioni che vengono compiute e dalla Russia e dagli Stati Uniti d'America, tendiamo, gli Stati Uniti d'America spiano noi, spiano tutti gli amici. Sì, ma insomma è possibile che ci sia questa reciprocità di interventi degli hacker. Senta, che Putin preferisca Trump alla Clinton è un fatto. Perché secondo lei? Beh, perché la Clinton ha avuto in passato un atteggiamento ostile e perché la Clinton ha proprio nei confronti della Russia, ma in particolare epidermicamente nei confronti di Putin, un'avversione viscerale. E quindi, lei che ha ingannato i russi recentemente, quando era segretario di Stato, li ha assicurato loro durante la crisi in Libia di non porre il veto all'intervento contro la no-fly zone, assicurando che non sarebbe stata utilizzata per fini militari, per fini bellici. Invece poi, come sappiamo, è andata in un altro modo. Quindi... Senta, e quindi se vincesse la Clinton questa possibilità di guerra si avvicinerebbe? Ma diciamo di guerra si spera di no, però sicuramente possibilità di un inasprimento della già grave situazione, sì. Come isolazionista Trump, che poi non ha legami con coloro che hanno fatto sorgere e alimentato l'ISIS, cioè soprattutto i paesi del Golfo e l'Arabia Saudita, avrebbe le mani maggiormente libere e per instaurare un rapporto diverso. Avrebbe un rapporto diverso e assoconderebbe Putin, che più volte, continuamente, reiteratamente, ancora ieri, ha fatto appello agli Stati Uniti a intervenire in modo congiunto per eliminare, lui ha usato anche un'espressione molto forte, comunque eliminare... Cioè che espressione ha usato? Proprio di cancellare dalla faccia della terra fino all'ultimo combattente dell'ISIS. Ecco, ricordo che il dottor Sandro Tetti è un editore che ha una collana della sua casa editrice interamente dedicata alla Russia, ai suoi personaggi e ai rapporti con l'Italia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Beh, abbiamo evocato la parola guerra elettronica, lo scontro tra gli Stati Uniti e la Russia per ora si svolge in rete. Le accuse di hackeraggio della Casa Bianca a Mosca sono accuse oramai esplicite. La CIA addirittura avrebbe avuto un mandato per un piano d'attacco informatico già pronto nel cassetto. Sentiamo Andrea Grazioso del Ministero della Difesa su questo tema. Dottor Grazioso, buongiorno. Buongiorno. Ecco, una domanda semplice per una risposta semplice. Che cosa è la cyberguerra? La cyberguerra, diciamo, è l'insieme delle operazioni finalizzate a obiettivi politici, economici e anche militari che si svolge nel dominio virtuale, nel dominio, diciamo, delle reti informatiche. Ma quanto può essere pericolosa una guerra informatica? Molto? ovviamente può essere estremamente pericolosa. Ma mi può fare un esempio concreto? E può determinare sia effetti che rimangono circoscritti al dominio informatico, ma comunque sono devastanti. Immaginiamo un attacco informatico massiccio contro i sistemi bancari, un attacco che bloccasse tutte le transazioni economiche, questo porterebbe al collasso dell'economia. Oppure può anche generare effetti che noi definiamo cinetici, si fanno impazzire i computer che controllano una diga. E quindi si apre l'acqua e si determina una devastazione. Ecco, gli americani accusano i russi di aver tentato di violare i database del Partito Democratico, addirittura di voler cambiare l'esito del voto elettronico nelle elezioni presidenziali. È una cosa ragionevole, possibile? Che idea si è fatto lei? Questo chiaramente esula dalla mia responsabilità. No, ma non parlo di responsabilità, parlo di analisi. Sono cose assolutamente possibili e io ritengo che avvengano, come dire, in molte circostanze. È abbastanza chiaro che le società moderne, anche non solo quelle occidentali, sono estremamente vulnerabili. Sono vulnerabili perché il sistema dei media è di per sé fortemente influenzabile da questo tipo di operazioni. Ecco, dottor Graziosi, ma Mosca in ogni caso sembra avere, almeno così sembra, una competenza, una grande competenza nel campo della cyberguerra. Ma il Cremlino, è vero che il Cremlino usa gli hacker indipendenti addirittura come mercenari? Una volta si usavano i mercenari per fare la guerra, adesso gli hacker indipendenti? Beh, ovviamente io non le posso rispondere perché questo sarebbe, come dire, un'accusa forte. Che no, una fare. Possibilità, però, chiedo. Io però le come dire, riporto la questione a un tema un pochino più ampio, quello che noi chiamiamo conflitto ambiguo. L'ambiguità dei conflitti moderni è rappresentata proprio dalla difficoltà nel tracciare le responsabilità e quindi la riconoscibilità degli attori. E questa ambiguità l'abbiamo vista in azione ad esempio in Crimea, quando comparvero i famosi omini verdi che si muovevano militarmente in maniera molto organizzata e però non avevano la bandiera in mostra. Certo. Quindi esiste un'ambiguità nel dominio cibernetico. Cioè è cambiato proprio il modo anche di fare qualsiasi azione, diciamo, di guerra, se vogliamo usare questa parola. Non è cambiato perché questa parola. Voglio dire, se uno ha voglia di leggersi gli scritti di Sun Tzu, che risalgono a diversi migliaia di anni fa, e come dire, trova esattamente le stesse cose. Quindi la guerra ha sempre avuto un carattere di parziale ambiguità. Uno dei motivi per i quali la NATO, non i singoli presidenti o i singoli cancellieri, ma la NATO come alleanza è preoccupata da scenari di conflitto in alcune zone dell'alleanza, è dato proprio dall'ambiguità di un possibile conflitto su piccola scala. Ecco, dottor Grazioso, ma gli attacchi alle strutture informatiche, l'abbiamo detto, riguardano anche l'Italia. Sono stati segnalati molti casi. Noi che difese abbiamo? Ci sono delle difese, diciamo, sicure? Mi sembra una parola quasi inusabile. Sarebbe come dire che noi abbiamo difese sicure contro il terrorismo. No. E in tutta evidenza esistono una serie di misure, sia di carattere fisico, sia di carattere di intelligence, quindi investigative, di prevenzione, che mitigano il rischio. Sì. Dopodiché il rischio zero non esiste, non esiste per il terrorismo. Non esiste per nulla. Senta, ma i più grandi spioni delle nostre conversazioni però si sono rivelati gli americani, è vero? Abbiamo visto che spiavano anche i leader alleati, dalla Merkel a Berlusconi. Insomma, alla fine è l'informazione l'arma letale. Sì, ma questo chiama in causa anche il ruolo suo e dei media. Sì, ma io non faccio ancora l'hacker. Adesso, no, appena mi specializzo, cambio mestiere. Nel senso che in realtà quello di cui stiamo parlando è quel dominio della conoscenza che passa sicuramente attraverso le email o le trasmissioni classificate, ma passa anche attraverso le radio e le televisioni. Certo, naturalmente. Quindi in realtà riuscire ad influire. Siamo tutti coinvolti. In una certa misura sì. Ma come vengono criptate le comunicazioni sensibili, per esempio, dello Stato italiano? Allora, esiste un una, chiaramente una molteplicità di misure di sicurezza. La prima misura ovvia è quella di avere reti di comunicazione dedicate, cioè una pluralità di soggetti istituzionali, sia nei ministeri sia in altri ambiti, hanno delle reti di trasmissione che sono separate dalle reti di comunicazione. Normale, vabbè, quindi richiedono uno sforzo in più per essere addirittura ci sono delle hackerate. Reti che non vengono mai utilizzate e verrebbero utilizzate proprio per non rivelarne l'esistenza e verrebbero utilizzate solo in caso di guai molto seri. Quindi neanche si può sapere se esistono. Se esistono, è un po' come era internet all'inizio, insomma c'era già ma non si sapeva. Era underground. Diciamo più o meno. Senta, quindi per finire, la guerra oggi comincia in rete, poi magari continua con i missili e poi forse con la fanteria. Purtroppo il problema è ancora un pochino più grave. Cioè, mi dica. Noi non sappiamo quando comincia la guerra. Certo, cioè, il Papa per esempio dice che è in corso una guerra mondiale a pezzi. E allora possiamo parlare invece che di guerra in maniera più corretta di conflitto. Conflitto. Il conflitto che ha natura chiaramente anche di altro genere, economico ad esempio, certo, sicuramente informativo, e allora sì, ma in tutta evidenza, però voglio dire, non serviva le ultime vicende o Putin per scoprirlo. Certo, naturale. Va bene, grazie dottor Grazioso, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Insomma, torniamo all'aratro per salvarci, Mario. Torniamo all'aratro, non è male. Vabbè, noi lo diciamo sempre, però se abbiamo l'orto bisogna coltivarlo. Tu lo coltivi maniera. L'orto, Pietrangelo? Io mi vanto di saper fare anche gli innesti, però non vorrei essere retorico, però è giusto ricordare quello che disse Einstein a proposito dell'uso delle armi del nucleare. La prossima arma sarà ancora una volta la pietra. La pietra. Certo. Sì, sì. Bastoni e le pietre, dice. 800 per quelli che sopravvivono, insomma, che certo, restano. Sì. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblici. State ascoltando un programma offerto da. Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Mix 24. Pietrangelo, per riprenderci da questa ansia di guerra, che cosa ci fai sentire? Arrivano i fulmini. E allora oggi metropolitana senza tema di tensione, perché alta, altissima è la pura energia. Avvolti nei corrimano dei vagoni in corsa c'erano due o forse tre fulmini impegnati a far ciacole con una bimba abbastanza capace di far scintille coi sorrisi ed incapace di paura. Ha chiamato Diana Cacciatrice, ha voluto questo brano con un messaggio. Ma dove si accende la notte in pieno giorno? Vogliamo dirlo che questa è la voce meravigliosa di Steve Nicks. Diciamolo. Mac. Diciamolo. Diciamo. E tu dove vai nella tua ricerca di notizie fra un giornalino e l'altro giornalino? Intanto andiamo a sentire i Queen. Giovanni, fa venire i brividi sta canzone. Figurati cosa me ne importa dei giornaletti. Senti qua. Dai, va, forza, facciamola questa rassegna stampa locale. Allora, no, vabbè, stamattina ho visto due titoli molto divertenti, li ho messi insieme, sì, perché così cerchiamo di fare. Uno sul Gazzettino e uno sul Mattino. E secondo me, se vuoi farti un'idea sulla civiltà di un paese, devi dare un'occhiata alle sue scuole. Assolutamente. E l'impaginato dei giornali stamattina restituisce, secondo me, un'immagine che non lascia dubbi. Titolo sul Gazzettino: crollo dell'intonaco, 5 classi della scuola traslocano in parrocchia. E già abbiamo una certezza, e cioè quella che le chiese costruite qualche secolo fa reggono, sono sempre migliori, reggono più degli edifici scolastici costruiti nel Novecento, se va bene. E questo è successo a Milano. Al Mattino invece riporta quest'altra notizia: Campobasso come Amatrice, scuola a rischio ma non chiude. Coraggiosi. Allora, qua nord e sud sono uniti nello sfascio edilizio che in realtà è uno sfascio educativo. E la realtà vera è che sono i maestri e i professori, cari genitori, segnatevelo bene questo, sono i maestri e i professori a fare ancora da pilastro, sono l'unico calcestruzzo rimasto. E non è l'intonaco a cadere, ma quel che resta dello Stato e, ahimè, della cultura della buona italiana. Scuola, della buona scuola, quindi... Mi riservo il commento. Silenzio su va questo bene. Quasi lasciamo stare. Salamino Pietrangelo. Obama vota sì. E va! Oh, il presidente degli Stati Uniti d'America vota sì al referendum sulla riforma costituzionale, quella che è stata scritta dalla silente, soave, severa Maria Elena Boschi, adesso anche schiva e anche schiva. Perché certo. Nell'indovina chi viene a cena alla Casa Bianca, lei, proprio lei, non si è fatta vedere. Non c'era Maria Elena, ma c'era il suo referendum, che è stato argomento di discussione alla cena di Stato offerta da Barack Hussein Obama a Matteo Renzi, che poi, ricordiamolo, è il leader che tutto il mondo ci invidia. E in quell'occasione, mentre parlavano della riforma scritta dalla soave, silente, severa e schiva Maria Elena Boschi, hanno mangiato agnolotti con colature di friarielli caramellati in salsa blu di mille bolle blu, e lì il capo dell'amministrazione americana ha detto che voterà sì. No. Sì, sì, no. Ha detto che sì. Voterà sì, e no. Tutti i giornali, tutti i TG e anche gli amici di Broccolino hanno telefonato, hanno comunicato al mondo la decisione di Obama di votare sì al referendum per le riforme. Si dirà, non ha la cittadinanza, ma quante quisquiglie, quante formalità. Nell'Italia di Renzi l'America è più bella e più forte che pria, e il nostro inno resta sempre solo uno: tu fa l'americano, americano, americano. Certo senso, diciamolo, il voto in Italia per Obama è come il maccherone per Nando Mericoni, perché tra tutte quelle mille bolle blu di colature di friarielli, poi gli hanno portato il referendum, e lui che ha detto: referendum, tu mi hai provocato, io me te magno. Perché grande, grandissimo è stato il successo della missione di Renzi negli Stati Uniti. Da oggi l'Italia può vantare giornate di sole, poi vabbè che c'è la disoccupazione che ha le stelle, vabbè che... Però è molto più importante il referendum rispetto al maccherone, perché tutte le notti diventeranno serene, come quella appena trascorso, che ci rende degni tutti, caro Giovanni, di Aristotile. Il corpus aristotelico si è incarnato in noi. Ma sì, perché siamo figli di un solo sillogismo. Mario, ascoltami, ti faccio ritrovare il non filo. È possibile. Mario, tu cosa voterai al referendum? Non te lo dico. Ma... vabbè, dai, vota sì. Oh, perfetto. Allora vota sì. Sillogismo forse, alla mano. Forse. Ma forse. Sì, come no, forse. Ah, forse. Secondo... ah, non sei più col sì. Non lo so. No. Vabbè, insomma. Vabbè, allora... sta approfondendo. Dai, voti sì. Non lo so. Tu, Giovanni? Anch'io approfondisco. Anche tu approfondisci? Sì, voto sì. Ah, oh. Approfondito, però. Approfondito. Come, fino all'ultimo giorno. Obama. Fino all'ultimo minuto. Approfondito qua. Fino all'ultimo minuto. Secondo me votate no. Eh? Secondo me votate no. giusto? Siamo no, Mastotte. Sei l'unico che vota no, sei tu, sicuro, senza approfondimento. Io? Sì. Sì. Finirà che vota sì. Sì. Forse lui vota sì, noi votiamo. Ha perso no, il non filo. Si sa, ha perso, no, non ha perso il filo. Insomma, ha perso il filo. Cioè, che dobbiamo, come la chiudiamo? Sto? C'è una chiusura? Mi avete fregato il sillogismo. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Vabbè, che facciamo? Sì, divertente, molto divertente. C'è ancora una, sì, una bolla nella tua pentola? Sì, Elton John, tanto per cominciare. Pezzo, che pezzo meraviglioso. E l'ho scelto non a caso, come potete perché? Immaginare, perché vi voglio perché a proposito di cultura, come dicevamo prima, la cultura è memoria, la cultura è presente. Oggi la sonda Schiaparelli atterra su Marte. È un nome italiano, sì. Questo si capisce. E chi era Giovanni Virginio Schiaparelli? Era un fantastico piemontese che a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento è stato un grandissimo astronomo e storico della scienza. C'è una tradizione in Piemonte. Sì, era nato a Savigliano, mostrò subito un talento incredibile. Giudica Cordiglia, Torino. Sì, roba minoliana questa, roba minoliana. Teorizzò, pensate, teorizzò il nesso che c'era tra meteore e comete. Nel 1877 studiò, osservò Marte e i famosi canali del pianeta rosso furono una sua scoperta. Fu un grandissimo. In suo onore la scienza ha battezzato un asteroide col suo nome, un cratere sulla Luna, un cratere su Marte, una catena montuosa su Mercurio. Oggi la sonda ExoMars è solo una cosa. Schiaparelli è ricordato sulle stelle e poco ricordato sulla terra. Questo in patria. Nemo profeta in patria. 800 24 00 24, numero verde. 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Mix 24. Tutelare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti. Dio mi è testimone. Il 20 gennaio del 1969 Richard Nixon viene eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Alla Casa Bianca dal 69 al 74 Nixon è uno dei presidenti più controversi della storia americana. Il carattere riservato e schivo e poi i suoi problemi di salute, l'abuso di alcol e di farmaci lo rendono un uomo vulnerabile. Nixon non era un tipo socievole. Non amava incontrare gente nuova. Questo è piuttosto insolito per un politico. Penso che avesse la politica nel sangue, anche se era piuttosto insicuro. Il Vietnam e le proteste popolari contro la guerra sono il primo ostacolo del suo mandato. Poi il terrorismo palestinese, ma soprattutto il Watergate. Il 17 giugno del 72, il più grave scandalo che ha coinvolto la Casa Bianca sta per abbattersi su Nixon. Il Watergate è un episodio che deploro profondamente. Ribadisco che faremo del nostro meglio per assicurare alla giustizia i responsabili dell'episodio di Watergate. Detto questo, dobbiamo lasciarci alle spalle il Watergate e occuparci delle questioni che interessano la gente. Ma lasciarsi lo scandalo alle spalle è impresa impossibile. Le dimissioni sono l'unica alternativa all'impeachment. L'8 agosto del 74 Nixon pronuncia il suo discorso di addio. Quando vi arriva un brutto colpo, una grossa delusione, quando sopraggiunge la tristezza, solo allora, quando si è scesi nella valle più profonda, si capisce quanto sia magnifico stare sulla vetta più alta. Bene, dopo giornale radio, dunque, per la serie dedicata ai presidenti americani in vista dell'elezione, un ritratto di Richard Nixon, il presidente travolto dal Watergate. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo, come sempre, come ogni giorno, le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, settembre 2016. Effetti del vaccino contro herpes zoster nelle persone con più di 70 anni di età. Le vaccinazioni sono per i bambini certamente e colgo l'occasione per ripetere che devono essere fatte e non c'è veramente nessun motivo perché non siano fatte nei bambini e chi dice il contrario dice veramente delle cose antiscientifiche, ma le vaccinazioni sono anche un modo per aumentare la longevità, soprattutto quelle che debbono essere fatte o possono essere fatte dopo una certa età, diciamo dopo i 50 anni. Tenete poi presente che da quest'anno, con il piano vaccinale recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in Italia, sono disponibili gratuitamente non solo la vaccinazione contro l'influenza, ma anche la vaccinazione contro lo pneumococco, quindi l'artefice della polmonite pneumococcica che è così seria soprattutto negli anziani, e la vaccinazione contro l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio. Allora, questo lavoro certifica se questa vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio è efficace o meno. Si era visto che la vaccinazione negli ultracinquantenni contro l'herpes zoster aveva effetto. Questo lavoro ha testato se questa vaccinazione ha effetto anche per gli ultrasettantenni. 13.900 partecipanti che sono stati valutati, 6.950 con il vaccino, 6.950 con un placebo, cioè una iniezione dove non c'era nulla dentro se non acqua distillata. Dopo quasi 4 anni di follow-up si è visto che l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, aveva colpito 23 dei 6.950 vaccinati contro 223, 1 contro 10% dei non vaccinati. A dire che questo vaccino è estremamente efficace, è efficace anche dopo gli 80 anni ed è efficace anche contro quella che è la complicanza più importante del fuoco di Sant'Antonio, che è la neuralgia posterpetica. Amici, non ci sono scuse, bisogna vaccinarsi. Vacciniamoci. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera cosa ci presenta? Cosa ci offre? Cosa ci propone? Oggi una canzone per chi fugge il buio, testimone di guerra ferma e umida, che solo il sole può per un po' spostare. Arisa, la notte. E quando arriva la notte e resto sola, questa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi,